di noi, cosa resterà per noi, per noi, la scia che navighiamo per infiniti mondi che non ci ricorderemo più. Sono infiniti come noi, se tu sei qui con me, se resti qui con me. I am here, always by your side. Apro le mie ali nel silenzio e ti porto via nel vento fino al cielo. Stelle sono sempre lì nel cielo. Per noi, ricordi, non ci bastava mai la vita, le strade, la voglia, e poi di nuovo a casa, da quella stanza agli occhi su, quell'infinito intorno a te, così sei arrivata tu, e resti qui con me, se resti qui con me.